Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno e benvenuti a tutti ad una nuova puntata di Cuore e Denari. Siamo nel cuore della settimana nazionale della prevenzione oncologica, è giunta alla sua 15ª edizione. Ha scelto uno slogan che ci piace in modo particolare, che suona così: la mia ricetta della salute? La prevenzione. Allora, la vostra ricetta qual è? Cercate di mantenere il peso forma? Avete smesso di fumare? Avete ridotto o eliminato dalla vostra tavola alimenti di origine animale, carne rossa insaccate o lo zucchero? State attenti al consumo di bevande zuccherate? Cercate di ridurre lo stress? Insomma, io di idee ve ne ho date, ma adesso tocca a voi. Per ogni buona ricetta, un libro del dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano, che è già qua in studio con noi, il famoso libretto per attivare il metabolismo. E quindi vi vogliamo attenti, rapidi e collaborativi. La prevenzione passa dal nostro numero verde 800 24 00 24, chiamateci. Non passa solo dal numero verde, passa anche dalle ricette giuste. Le ricette giuste passano dalla spesa giusta, no Nicoletta? Noi siamo due brave massaiette, quindi lo sappiamo bene. Spesa giusta, calibrata nella qualità e nella quantità, è una spesa ancor più giusta se tra i suoi obiettivi ha anche quello di evitare di buttare quantità di cibo che non viene consumato perché in eccesso, perché lo facciamo andare a male. Allora, nella seconda parte della nostra trasmissione parleremo di lotta allo spreco alimentare, proprio nella settimana in cui ha avuto inizio il suo iter parlamentare la proposta di legge che vuole incentivare la lotta allo spreco e aiutare l'impegno di quelle organizzazioni che si occupano di redistribuzione del cibo. Ne parliamo oggi chiedendovi se avete messo in atto a casa vostra, nella vostra famiglia, delle abitudini antispreco, che naturalmente aiutano anche il portafoglio e non fa male. Vorremmo sentire anche la voce degli operatori del settore alimentare, se ci ascoltano, e della ristorazione. Quanto cibo vi ritrovate a dover buttar via ogni giorno? Accade anche per gli attuali limiti di legge? Raccontatecelo all'800 24 00 24. Una settimana, un giorno, solamente un'ora. È la settimana nazionale della prevenzione oncologica e quindi potrebbe essere un'occasione per ripensare al nostro stile di vita, al tipo di alimentazione che seguiamo e anche all'attività fisica che pratichiamo, perché bastano piccoli accorgimenti quotidiani per guadagnare salute. Di questo parleremo oggi insieme a voi e ai nostri esperti. Il dottor Speciani, ve l'ho già anticipato, è qui in studio con noi, allergologo e immunologo clinico a Milano. Grazie dottor Speciani, ha già portato i suoi libri, li abbiamo qua in redazione, pronti a raggiungere le vostre case. Sono belli, attenti, pronti anche loro i libretti, pronti a saltare nella casa di chiunque. Ma salutiamo e diamo il benvenuto al professor Francesco Schitulli, senologo, chirurgo oncologo al Mater Dei Hospital di Bari e presidente nazionale della LILT, che promuove questa bella iniziativa. Professor Schitulli, grazie per essere con noi, buongiorno. Grazie a voi, soprattutto per la trasmissione, che la chiamerei e definirei la trasmissione del buon senso. Grazie, professore, ci mettiamo anche questa targhettina qua. Intanto invito i nostri ascoltatori, riprendendo lo slogan della settimana, a darci la ricetta della salute. Noi naturalmente ne scriveremo anche una con i nostri esperti e poi le metteremo a confronto. Professor Schitulli, primo, non fumare, perché il 25-30% di tutti i tumori è correlato al consumo di tabacco. Il fumo non solo fa ammalare, accorcia anche la vita e numerose ricerche confermano anche la pericolosità del fumo passivo. Sì, questo è un dato ormai scientificamente consolidato, i danni provocati dal tabagismo, che non si ripercuotono soltanto nello sviluppare un cancro, e nel 90% dei casi si tratta di un tumore al polmone, ma anche colpisce altri organi e anche altri apparati, come per esempio il cardiocircolatorio. Quindi la persona che decide di non fumare, e soprattutto quando si smette di fumare, ha tutto da guadagnare in termini non soltanto di quantità di vita, ma anche di qualità di vita. Ed è il presidio numero uno, insieme alla corretta alimentazione, che costituiscono i due baluardi per dei corretti stili di vita, e quindi, infatti, per garantire una vita degna di questo nome. Infatti la Lilt, professore, rinnova proprio l'invito a puntare sull'alimentazione, insomma ad applicare la ricetta di Ippocrate, no? Trasferendola nella quotidianità, fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. Quindi una sana alimentazione associata a uno stile di vita attivo è uno strumento valido per la prevenzione, la gestione e anche il trattamento di molte malattie. Il 40% dei tumori è potenzialmente prevenibile. Insomma, come a dire, professore, proprio per che la prevenzione inizia a tavola e continua in palestra. Certamente, perché i tre elementi essenziali della prevenzione primaria, che sono elementi soltanto attribuibili ad ognuno di noi è nelle condizioni di poterli attuare, senza aspettare, voglio dire, le istituzioni o quant'altro, sono rappresentate dalla lotta al tabagismo e alla cancerogenesi ambientale, professionale, e dalla corretta alimentazione e da una regolare attività fisica. Ora, questi tre elementi, se fossero ben guidati da ognuno di noi, ridurrebbero la possibilità di sviluppare il cancro in oltre il 40%, perché l'alimentazione scorretta è responsabile del 35% di tutti i tipi di cancro. Il 30% è legato invece al tabagismo e la regolare attività fisica, e quindi un'attività anche a livello del metabolismo molto attiva, allontana la possibilità di sviluppare il cancro, perché il cancro è una malattia ambientale su base genetica, ma il nostro impegno deve essere rivolto soprattutto alle future generazioni, perché l'aspettativa di vita tende a crescere di anno in anno. E oggi ho già un'aspettativa di vita di 85 anni, i nostri figli supereranno i 90 anni, chi nascerà nel 2050, che non è tanto lontano, fa 34 anni fa, cioè che cosa è accaduto nel 1986, non ce lo ricordiamo, fa 34 anni, chi nascerà nel 2050 avrà un'aspettativa di vita di 120 anni, che è il massimo biologicamente consentito all'essere umano. Quindi noi dobbiamo cercare di garantire una qualità di vita degna di questo nome a chi avrà 80-90 anni. Professore, quindi appuntamento con la Lilt, l'oro verde e i taralli. Si dice taralli e vino, ma invece noi diciamo taralli oro verde, che è l'olio extravergine d'oliva. L'olio extravergine d'oliva che è presente quest'anno anche in questi taralli, che sono fior di Puglia, messi a disposizione. Gioca in casa, il dottor Speciani dice gioca in casa il professor Schitulli, perché viene da una terra magnifica. Dottor Speciani dice gioca in casa il professor Schitulli. Grazie. Al collega dico, non devono soltanto i libri arrivare nelle case, ma anche nelle menti, e quindi mettere in pratica ciò che ha scritto. Certo. Professore, allora, taralli, olio extravergine d'oliva, nelle piazze insieme alla Lilt per imparare a fare prevenzione, con piccoli gesti quotidiani. Esattamente, con consigli, suggerimenti dati dai nostri volontari, dai nostri medici, dai nostri specialisti, oltre ad un opuscolo informativo a livello divulgativo scientifico su quali sono gli effetti benefici di un'alimentazione sana. Grazie professor Schitulli. Grazie molto. Buonissima giornata. Bene, adesso dottor Speciani a noi. Ecco, la prevenzione è, lo sappiamo bene, una ricetta composta da tanti ingredienti. È importante mangiare bene, ma è assolutamente necessario muoversi, mantenere o recuperare un peso forma. Sul fumo abbiamo già detto. Allora partiamo dall'alimentazione. I dati ci dicono che il 25% dei casi di cancro al colon retto, il 15% di quelli alla mammella, il 10% di quelli che colpiscono la prostata, pancreas ed endometrio potrebbero essere evitati aderendo alle indicazioni della dieta mediterranea. Quindi significa più verdure, più legumi, meno carne rossa e lavorata, pesce, olio, e voilà, la ricetta fantastico, è fatta. Fantastico, direi che abbiamo una bella serie di elementi. Tanto vorrei riprendere quello che ha detto Schitulli, perché l'elemento su cui spesso io parlo da immunologo, parlo con i miei pazienti e mi dicono sì certo, la prevenzione si fa con la diagnosi precoce. No, è vero, la prevenzione primaria non si fa con la diagnosi precoce, che è già secondaria ed è di aiuto. Si fa proprio facendo le cose che Schitulli ha segnalato, quindi muovendosi, mangiando bene e lasciandosi anche lo spazio di respiro, come dire, no? Quindi di respiro emotivo e di respiro tossicologico, quindi evitando il fumo, evitando l'ambiente certo. tossico. E da questo punto di vista vorrei anche dire una cosa, io credo importante. Intanto non sono così convinto che riusciremo ad arrivare ai 120 anni come Schittulli ottimisticamente pensa, perché ad esempio negli Stati Uniti purtroppo si è vista una deflessione proprio legata al fatto che le persone mangiano malamente e quindi quelle che sono le aspettative in realtà, se non vengono poi rispettate sul piano alimentare, possono dare delle... Noi mangiamo meglio però degli americani, eh? Sì, noi mangiamo, voi due poi sicuramente sono bellissime le mie due colleghe qua che quindi vedi, sono... ci ha fatto anche medico, gli regalo un libretto del metabolismo, gli regalate un bel libretto. Però io vorrei dire una cosa fantastica, che sono dei dati che vengono dalla World Cancer Research Fund ancora dal 2007, che il fatto di mangiare bene non è solo un elemento di prevenzione, ma addirittura di affiancamento alla cura. C'è un articolo che ho scritto su Eurosalud che dice la speranza degli obesi rispetto al cancro. Perché? Perché se una persona, ad esempio, scopre, viene diagnosticata con una forma tumorale ed è con un eccesso di massa grassa e inizia a mangiare adeguatamente, perde massa grassa, cioè si rimette in sesto, migliora tantissimo la prognosi. Questo vuol dire che le persone a volte purtroppo non pensano a prevenire e iniziano a pensare dei cambiamenti solo quando sbattono la faccia improvvisamente contro una malattia che compare. A quel punto comunque si può ancora agire, si può agire sulle stesse linee che voi con la trasmissione del buonsenso, come ha detto Schittulli prima, e con la vostra presenza riuscite a trasmettere a tutte le persone che ci ascoltano. Allora, adesso andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Voi da casa attivatevi, da casa, dall'auto, dateci la vostra ricetta, ma come vi abbiamo anticipato ricordatevi di mettere più ingredienti. Per ogni ricetta di salute un libro del dottor Speciani sul metabolismo, perché anche il peso ha il suo peso nel promuovere la salute. Informazioni sul traffico e poi subito dopo con Paolo da Bergamo e Roberta da Monza. Cuore e denari. Mediterraneo da vedere, con le arance, Mediterraneo da mangiare. Settimana di prevenzione oncologica, ciascuno di noi deve fare la sua parte, perché non possiamo continuare a delegare ad altri. Dobbiamo ogni giorno, a poco, diventare soggetti attivi della nostra salute e del nostro benessere. Allora, qual è la vostra ricetta della salute? Partiamo proprio da qui, dallo slogan della settimana in corso, per invitarvi a mettervi un po' in gioco, a considerare il vostro stile di vita nel complesso. Cosa potreste cambiare? Cosa potreste evitare o aggiungere per guadagnare salute? Quale piccola modifica ha avuto una ricaduta sulla vostra salute della serie minimo sforzo, massima resa? Dottor Speciani, l'abbiamo anticipato, con poco sforzo i nostri ascoltatori potranno ricevere a casa il suo libro, Attiva il metabolismo. Basta chiamare il nostro numero verde e darci una ricetta che sia sensata. Paolo, buongiorno da Bergamo. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Non è che mi esprimo benissimo, non sono poi emozionato. Ha ragione Paolo, anch'io lo sarei, ma andiamo, l'accompagno io. Allora. Comunque io vado in bicicletta e ho smesso di fumare quando mi sono sposato nel 92. Vedi. Sto bene, godo di buona salute, rinuncio a tante cose, rinuncio a tanto zucchero, ad esempio guardo sempre cosa c'è scritto dietro i prodotti, i valori energetici e così. Sto attento alle proteine, ad esempio i biscotti. Sapete che voi nei biscotti normali, frullini, ci sono 22 grammi di zucchero per 100 grammi. Sono tantissimi. Poi metti lo zucchero nel caffè latte, poi ti mangi qualche caramella, poi mangi la pasta 00 che è troppo assimilabile. E poi la pasta praticamente preparata allo zucchero. Ecco Paolo, gliene regalo 4. Per fortuna che era emozionato. No, attenzione che il dottor Speciani la mette a lavorare con lui. Io volevo anche dire una cosa. Io anche in casa mia, io mangio, guardo le proteine, io sono 60 kg, cerco di mangiare 60 grammi di proteine al giorno, nobili. 5 libri gli regaliamo. Scarto il rosso dell'uovo e cerco di mangiare la pasta integrale e prendere il pane integrale, ma se si va dal fornaio e gli si dice voi avete la farina integrale per fare il pane in casa col germe di grano, ridono, ti guardano male. Se tu vai al ristorante a mangiare che chiedi integrale quasi dappertutto sorridono. Cioè, anche con mia moglie, non mi capisce, perché lei mangia la carne rossa, mangia le salsicce, tantissimi affettati, il cioccolato, la marmellata. Attenzione, perché Paolo, intanto lei mi dà lo spunto per leggerle una ricerca, la riporta anche Tutto Scienze nel numero di oggi della Stampa. Nel matrimonio si condivide tutto, anche chili di troppo. C'è questo studio condotto all'Università di Edimburgo che dimostra che l'influenza del coniuge è fortissima e pesa sulla bilancia più dei propri geni di quanto sia preso dalla famiglia d'origine. Quindi se il tuo lui o la tua lei mangiano male, non fanno sport e sono sovrappeso, il rischio di condividere queste insane abitudini peserà. Ma loro lì stanno ancora combattendo, ecco, non si sa chi deve prendere dall'altro. Potrebbe vincere Paolo. Speriamolo, ecco. Auguriamo. Paolo, grazie, ci ha dato. Paolo è quasi troppo perfetto. Gli stavo dando 5 libri, invece poi gli hanno tolto uno quando ha detto che toglieva il rosso dell'uovo. Esatto. Le dico perché. Perché mangiato sanamente è un ottimo fornitore di vitamina D. E noi stiamo purtroppo in Italia e anche in Europa stiamo perdendo molta vitamina D, che è un ottimo elemento di protezione. Quindi io però benissimo, direi che la ricetta è positiva e quindi ha toccato dei bei punti. Lui devo dire che ha fatto, oltre ai compiti, ha fatto già studiato quasi l'università. Però ecco, però lei ha trovato, come si dice, il pelo nell'uovo. Il tuo orlo ci va, ma il libro va a casa del nostro amico Roberto Roberta da Monza. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Roberta, mi dica che fa qualche cosa di sbagliato, perché se siete tutti come Paolo, io a me qua licenziano, dicono non c'è più bisogno di nulla. Ma sicuramente ne farò tante di cose sbagliate. Diciamo che amo moltissimo cucinare, quindi qualche volta qualche concessione un po' particolare, l'uso di qualche grasso magari non così consigliato. Insomma, il burro per esempio io lo utilizzo, non sempre, però lo utilizzo. Però principalmente cucino tantissima verdura, pur non essendo vegetariana. Ho una bimba di 13 anni che è abituata a mangiare tutti i tipi di verdure in tutte le forme, da crudi a cotti, e in particolare tantissime verdure della famiglia dei cavoli, cavolfiori, broccoletti. Beh, è una famiglia molto interessante. Intanto Roberta naturalmente il libro se lo porta a casa, ma ci racconta ci dà lo spunto per due puntualizzazioni. Cavoli e le verdure cotte o crude, meglio alternare? Io direi che vanno assolutamente alternate, mantenendo sempre il crudo. Io, se devo dare una mia ricettina microba delle quattro cose, dei quattro punti, sono: misurarsi la vita, perché la misura della vita ti dice se stai diventando cicciotto o meno, indipendentemente dal muscolo. Evitare la dolcificazione inutile, mangiare verdure crude e prendere le redini in mano della propria storia, perché come ha detto prima Nicoletta non possiamo delegare ad altri. Quindi queste sono quattro linee importanti, ma quello che ci ha detto Roberta direi che è ottimo, e io riprendo questo valore del cucinare. A volte anche quando dobbiamo mangiare fuori, comunque dipendere da altri, il fatto di cucinare qualcosa mette in grado di capire come funziona la cucina e la salute. Attenzione, negli ingredienti della prevenzione c'è sicuramente quello di mantenersi nell'intervallo del normopeso, perché può essere uno dei migliori comportamenti in grado di prevenire il cancro. E il nostro programma Meno Pancia Più Salute va proprio in questa direzione, perché si stima che i valori della circonferenza della vita, pari o superiore a 80 nella donna e a 94 nell'uomo, siano fortemente associati a un rischio di numerose malattie considerate complicanze metaboliche, dell'obesità, tra le quali il diabete, le patologie cardiovascolari e i tumori. Quindi ripasseremo alcune regole. Il peso è molto importante, ancora più del peso la circonferenza addominale. Siete ancora in tempo naturalmente per misurarla e per raccontarci un po' il vostro stile di vita, per dare l'opportunità al dottor Speciani di suggerirvi, no, dei cambiamenti che potrebbero aiutarvi ad aggiungere anni e qualità di vita ai vostri anni. 800 24 00 24 per le vostre ricette della salute. A tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su RDS.it. e denari. E allora muoviti, muoviti. Oh yeah. E sì, muovetevi anche voi. 800 24 00 24, dateci la vostra ricetta per la salute, raccontateci il vostro stile di vita per farvi aiutare dal dottor Speciani nel caso ad apportare alcuni piccoli ritocchi. Prevenzione non significa, e lo vogliamo sottolineare, scrivere a lettere cubitali, non significa privazione né mortificazione. È importantissimo godersi la vita con saggezza, però, e senza preoccuparsi troppo. L'importante, come sempre, è ricordarsi che ciascuno di noi può fare molto per la propria salute con piccole attenzioni quotidiane. Dottor Speciani, non occorre fare grandi sacrifici, basta puntare sulla qualità e sulla varietà per soddisfare i fabbisogni dell'organismo e anche fare scorta di tutte quelle sostanze che svolgono un ruolo protettivo e preventivo nei confronti di determinate condizioni patologiche. Sul ruolo protettivo di alcuni alimenti nei confronti del tumore ci sono delle evidenze molto interessanti, dai broccoli alla curcuma, passando per il tè verde. Ci fa un piccolo promemoria? Intanto mi piacerebbe ricordare a tutti che abbiamo fatto molte trasmissioni qui con chef anche stellati. Come Andrea Ribaldone, che salutiamo. Salutiamo davvero tutti, perché ognuno ha dato la sua interpretazione del piacere, del gusto con dei cibi salutari buoni. Tra cui l'uso delle spezie, fantastico. Citato adesso la curcuma. Curcuma è uno dei... Io ricordo il penultimo congresso della American Institute of Cancer Research a Washington, in cui tutta un'intera sessione del pomeriggio di uno dei due giorni del congresso era dedicato alla curcuma come antitumorale. Quindi non solo, cioè, stiamo imparando che l'utilizzo di alcuni prodotti, giusto appunto, noi poi siamo abituati in Italia un po' a mangiarlo nel curry, il curry è fatto 95-96% da curcuma, però di per sé è una sostanza fantastica che può essere usata con piacere in un mucchio di preparazioni alimentari, è piacevole. Poi ne abbiamo altri, abbiamo sicuramente il broccolo, abbiamo citato prima, il broccolo italico soprattutto ha dentro delle capacità antiossidanti enormi e riesce a mettere in moto dei meccanismi enzimatici, per cui non è solo buono, fa anche benissimo, eppure affiancandosi a concetti come il tè verde, che molti cuochi sanno gestire in maniera positiva, che ha pure un'azione antiossidante naturale. Pensa che possiamo sostituirlo all'acqua durante, magari non bere solamente tè verde, però durante il giorno noi abbiamo la bottiglietta d'acqua sul tavolo per idratarci. Dunque, facciamo delle indicazioni, quanto tè verde? Ricordiamoci che il tè verde è comunque teinato, quindi ha un'azione, non è che... Non possiamo berne a litri. Dopo c'è gente molto sensibile anche al caffè, perché tra poco parleremo poi di sonno. E quindi abbiamo un minimo di stimolo, anzi un minimo, abbiamo un possibile stimolo di tipo energetico, anzi produzione di calore e simile. Però sì, direi che ad esempio la possibilità di usare, se uno piuttosto che bere altro, se voglia di bere qualcosa di un pochettino più sensibile, un infuso di tè verde ha una sua azione sicuramente positiva ed è benvenuta nella maniera più assoluta. Ribatto un'ultima cosa, il concetto di varietà. È stato toccato il concetto di varietà alimentare e noi riusciamo ad adattarci a tutta una serie di alimenti e quindi ad avere un'azione positiva se abbiamo contemporaneamente la vitamina D, la vitamina B, la vitamina A, eccetera. Quindi il fatto di avere una tavola che cambi nella giornata, che cambi nella settimana, che segua un po' il ritmo stagionale, è una mano in più da dare alla prevenzione. Abbiamo Dina, Barbara e Siri che ci aspettano. Wow. Vitamina D, dopo i 50 anni, ci chiede Simonetta, è raccomandata l'integrazione di vitamina D? Io la suggerisco praticamente al 90% dei pazienti che vengono e spessissimo troviamo persone in cui la vitamina D è bassa, ma proprio perché ci sono un po' di atteggiamenti siamo stati abbattuti da anni in cui abbiamo tolto tutti i grassi, il rosso dell'uovo, le cose e la vitamina D è nei grassi, quindi ne paghiamo un po' le conseguenze. Allora, un'altra indicazione che vorrei aggiungere per completare il quadro prima di passare agli ascoltatori è riguarda l'attività sportiva. La pratica sportiva moderata permette di prevenire le forme tumorali, al contrario però un'attività fisica smodata rischia di essere controproducente per quanto riguarda lo sviluppo di forme degenerative. Qual è, dottor Speciani, ci sono degli studi interessanti in materia, qual è il confine tra beneficio e rischio? Ed è vero per tutte le età e per tutte le condizioni? Diciamo che non è facilissimo definire questo dato, però già proprio la World Cancer Research Fund è riuscita integrando una serie di studi a definire che più o meno le due ore alla settimana, le due ore al giorno, quindi 14 ore alla settimana di esercizio intenso, rischiano di provocare più danno ossidativo, perché comunque lo sforzo fisico crea ossidazione e quindi facilita l'insorgenza tumorale al limite. Mentre restando entro le due ore al giorno di attività c'è un'azione che è solamente di tipo positivo. Poi ci sono sottili variazioni individuali, però è un buon limite. Io vedo persone che fanno troppo. Parlando di persone che svolgono l'attività a livello amatoriale, certo, non naturalmente degli atleti che lo fanno per lavoro. Quindi il termine è 14 ore alla settimana è un limite da tenere d'occhio. Ecco, intanto che pensate a quello che avete mangiato stamattina, quello che avete mangiato ieri sera, fate un po' il conteggio delle ore che dedicate all'attività sportiva. Magari qualcuno non arriva neanche ai 14 minuti. Esatto. Ecco, per cui non c'è il rischio di esagerare, ma Carmelo se la ride. Dina, buongiorno rapidamente. Buongiorno, complimenti per il programma, vi seguo sempre. Allora, la mia, non lo so se sbagliato o corretto, ma io oggi ho iniziato con un cappuccino senza zucchero. Ho eliminato lo zucchero, formaggi, inoltre non fumo, alcolici, il vino ogni tanto. Ci vuole, no? Faccio sport, nuoto due volte alla settimana. Ho trovato che va bene. Ha bevuto solo un cappuccino, Dina, un po' pochino. Qualche noce stamattina. Due mandarini. Allora, cosa manca alla colazione? La colazione è un po' carente di proteine, così buttiamola lì, diciamo mandorle per variare, no? Sì, se no questo dottorno. Mandorle e nocciole potrebbero aiutarla, un uovo sodo compreso di rosso insieme al cappuccino, e per il resto fantastico. Una sola cosa, non c'è un cibo cattivo, per cui non dica elimino i formaggi, dica li mangio magari una volta a settimana in cui mi posso divertire e li gusto, perché anche il gusto e la tradizione hanno un loro peso positivo nell'essere in contatto davvero con togli tutto. Questo, togli l'altro, certo, diventa una mortificazione ma continua. È la moderazione, e poi soprattutto noi abbiamo bisogno di dare segnali al nostro corpo, anche di varietà. Allora, il libro parte, andiamo a Barbara da Firenze. Buongiorno, Barbara. Ciao, buongiorno, piacere parlare con voi. Anche per noi. Barbara, allora. Dunque, io per 25 anni ho fatto un lavoro attivissimo, dove ero sempre in movimento, e ora da 3 anni invece faccio l'esatto opposto, perché sto a sedere e non mi muovo. E praticamente mi sono imposta e mi frego andando a piedi ogni volta che devo fare qualcosa, e quando posso mi muovo a piedi, andando a comprare il pane, andando a prendere la bambina poi, a scuola. Poi abita a Firenze, quindi è in anche provincia, sì, che è meglio anche. È ancora meglio. Sì, esatto. E quindi il vantaggio di sedere fermi, gli effetti si vedono dopo 5 minuti, però il vantaggio è stato che ho scoperto voi, Radio 24, e quindi vi ascolto tutti i giorni. In questa maniera riesco a salvare un po' di momento, certo, a salvare capre cavoli. Barbara, non ho problemi di linea, mangio bene. Barbara, ma sicuramente il libricino del dottor Speciani per attivare il metabolismo, punta sulla colazione, tantissime piccole ricette, sfizi e cose, serve a Barbara. E Barbara ha preso le sue redini in mano, ha iniziato a guidare. Questo è il fatto di scegliere per un cambiamento, è a volte il punto focale, il punto di flesso della vera prevenzione. Allora, ma chiedete al dottore se una fetta di torta fatta in casa con 60 grammi di zucchero per 250 grammi di farina integrale, burro e uova è troppo per la colazione. Ma no, insieme in una colazione. Anzi, ce la mandi, ce la mandi. Io faccio delle miscele, farina integrale, farina di riso, eccetera. Non ne vengono mai una uguale all'altra, perché improvviso, ma sono soprattutto buonissime. Soprattutto non ne viene mai neanche una qua in radio. Ma poi, direi, no? È vero, ve le porterò. Questo è grave, eh? Siri da Verona, buongiorno, chiudiamo in bellezza con lei. Buongiorno, io per me il cambiamento è stato quando è nata la nostra bimba, la prima, sì? Perché per far mangiare bene lei abbiamo pensato non possiamo mangiare male noi, perché diamo un pessimo esempio, ed è stata una svolta salvifica, perché abbiamo iniziato a introdurre cereali integrali, la pizza fatta in casa con più in più, variando anche noi, mischiando le varie farine, e infatti neanche a noi ne viene una uguale all'altra. Brava, ma Siri, ci scriveremo le nostre ricette in privato. Esatto, è mio marito, però è lui il nostro cuoco. Allora, con suo marito. In quantità. E poi ci siamo imposti di mangiare presto la sera, per la bambina aveva bisogno, e di uscire dopo mangiato. Noi siamo in Valpolicella, quindi non rinunciamo al vino, certo. Andiamo a camminare tra le vigne, e questo però ci ha abituato a muoverci E adesso quando ci capita di non poter uscire dopo cena a camminare un pochino, lo sentiamo, sì. Perché secondo noi proprio il metabolismo si è abituato anche le volte in cui mangiamo di più, che magari ci facciamo una pasta ai fasoi, come si chiama qua, bella carica. Che buona! La camminata dopo si sente. No, è vero, quindi. Perché ci sono le gambette che si muovono, a me capita così, e quando non voglio muovermi io mi porto fuori il mio cane, quindi è perfetto. Ho due libri però allora. Due libri per... A lei e al marito cuoco, esatto. Al marito cuoco, di cui aspettiamo le ricette. Allora, dottor Speciani, ci lasciamo? Ma la così? Ma no, diciamo intanto che possiamo... Il progetto della pancia continua. Ah, continua. Per chi si è iscritto, poi... Sì, quei due o tre che si sono iscritti, direi. Sì, abbiamo avuto un successone, oltre 200 persone mi sta facendo segno dalla regia, in un botto. Perché noi continueremo naturalmente su questo progetto di seguire e proporre anche ai nostri ascoltatori dei programmi di allenamento extra onda, dottor Speciani? Direi di sì, in maniera positiva. Ripetiamo, misurando prima di tutto la parte... Ho visto che una delle domande che stavano arrivando a video era di chi cercava di misurarsi la pancia in vita anziché all'ombelico. Non si bara. Non si bara. Perché? Però diciamo una cosa sensata, perché le misurazioni che sono gli 80 e 94 per donne e uomo sono talvolta nella società... Voi siete perfette e non ci sono problemi, però diciamo che dicono, fanno sentire le persone in grado di non raggiungere nessun livello. Io dico che già le persone che hanno un buon livello, cioè 88 per le femmine e 102 per il maschietto, che è un lieve aumento di rischio, è già un obiettivo a cui tendere, perché purtroppo quando misuro le pance alla gente che viene in studio sono molto di più, e quindi già quello è un obiettivo sano per farlo. Bene. Vi diamo un aiuto, ci diamo un aiuto tutti, sentiamo le vostre comunicazioni e insieme alle nostre nutrizioniste, a Camerotto e Chiozzi, direi stiamo elaborando ogni settimana un qualcosa di diverso che possa, insieme col buon senso e con la forza di Radio 24, direi, di queste due splendide ragazze, bambine. Bambine. Dottor Speciani, grazie per essere stato con noi. Grazie molto. E grazie per i libretti. Perfetto, ci sentiamo presto. Con questa legge ci poniamo l'obiettivo di raccogliere le buone pratiche in materia di riduzione degli sprechi che già si svolgono sul territorio nazionale, ma l'obiettivo principale è uniformare, incentivare e razionalizzare questo percorso positivo e virtuoso. Questa, in una dichiarazione di diversi mesi fa, la voce di Maria Chiara Gadda, deputata del PD che firma la proposta di legge contro lo spreco alimentare. I mesi sono passati, è passata Expo e anche il percorso di questa legge si sta finalmente concretizzando. È approdata alla Camera lunedì, il voto forte di un sostegno bipartisan è già manifestato in Commissione Affari Sociali, appunto, della Camera, è previsto proprio in questi giorni prima del passaggio al Senato. Ne parliamo oggi nella pagina di Denari. Vi do qualche flash per farvi comprendere di che tipo di fenomeno stiamo parlando, per chi non ci avesse mai fatto una riflessione fino ad ora. Il cibo sprecato in Europa potrebbe nutrire 200 milioni di persone. Sapete che complessivamente nel mondo ogni anno si buttano 1 miliardo e 300 milioni di tonnellate di cibo. Il consumatore europeo spreca l'anno più del suo peso corporeo, oltre 100 kg per un peso medio di 70 kg. Un italiano butta via 454 euro l'anno proprio perché spreca tanti alimenti. Potremmo continuare a lungo con queste immagini che sono davvero sconfortanti, ma la sensibilità attorno al problema dello spreco di cibo è sempre più alta, tanto che alcuni paesi si stanno dotando di norme per combattere questo fenomeno che è davvero inaccettabile. Lo ha fatto di recente la Francia e, come vi dicevo, ora anche l'Italia sta discutendo questa norma contro gli sprechi alimentari, che ha tante differenze rispetto alla norma francese, ma lo spirito è quello che conta. Quello che si vorrebbe fare nel nostro paese è favorire l'uso consapevole delle risorse, il recupero di prodotti ancora utilizzabili da parte delle associazioni di volontariato, un tema molto importante, cercando di alleggerire la parte burocratica delle procedure per la raccolta e poi per la donazione, non solo di cibo ma anche di farmaci. Musica per le orecchie del Banco Alimentare. Saluto e ringrazio per essere con noi questa mattina Marco Lucchini, direttore generale. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Che naturalmente stamattina... Sì. No, no. Sta mangiucchiando qualcosa.

Sì, mi ha fatto effetto, bravissime, non me l'aspettavo, sono rimasto colpito. Stiamo parlando, grazie a Francesco Ardito, noi ricordo ai nostri ascoltatori, per chi avesse perso la prima parte di Cuore Denari, stiamo parlando di lotta allo spreco alimentare, perché si sta discutendo in Parlamento di questa norma, composta da 17 articoli, che vorrebbe naturalmente introdurre anche in Italia appunto una buona prassi, quella della combattere gli sprechi alimentari, recuperare il più possibile ai fini di solidarietà sociale. È un testo peraltro anche abbastanza complicato, perché implica delle normative sulla sicurezza alimentare anche di tipo fiscale, vuole evitare anche evasione e forme di mercato nero e si focalizza anche, questo è un tema molto importante, sulla responsabilizzazione del singolo cittadino. Noi stiamo cercando di interpretare bene questo testo per capire che cosa cambierà con Marco Lucchini, direttore generale del Banco Alimentare, e poi vorrei sentire anche cosa ne pensate voi. Vorremmo sentire anche per esempio commercianti, ristoratori, gestori, operatori di rivendite in supermercati che sono all'ascolto. Ci segnalate quanto e quale cibo vi ritrovate a vedere sprecato ogni giorno sul vostro posto di lavoro? Siete impossibilitati a donarlo, riutilizzarlo anche per via dei limiti di legge attuali? Che cosa cambierà? Lo speriamo naturalmente che cambi qualcosa con questa nuova norma. Intanto Francesco Ardito, per chi non l'avesse ascoltato l'anno scorso, 30 secondi per rifare il biglietto da visita di Last Minute sotto casa. Perfetto, 30 secondi. Last Minute sotto casa è un progetto che appunto combatte lo spreco alimentare nei piccoli negozi di quartiere e nei mini market di prossimità. In che modo? In maniera molto semplice, proprio perché anche tutte queste categorie di negozianti si trovano spesso con piccole quantità di prodotto alimentare che rischiano di buttar via, e sicuramente il Banco Alimentare non interviene per tre polli o due mozzarelle o quattro uova eccetera eccetera, quantità troppo piccole. Last Minute sotto casa interviene in che modo? Il negoziante che si registra può inviare un messaggio molto molto semplice, come fosse mandare un SMS, scrivendo ad esempio: ho ancora quattro mozzarelle che scadono domani, venitele a prendere, che sono al 50% a metà prezzo. Il messaggio arriva a chi? A tutti i cittadini che si sono appunto registrati sulla Last Minute sotto casa e che abitano a due passi dal negozio. Dico sempre che è un progetto davvero win-win-win, perché il negoziante vince in quanto riesce ad incassare qualcosa che forse non avrebbe incassato, il cliente vince perché compra un prodotto fresco, perché ribadisco, se la mozzarella scade domani e la mangio stasera è assolutamente fresco, a metà prezzo, e vince il pianeta, siamo partiti da Torino. Intanto ha vinto Torino, perché l'adesione che avete avuto è stata a dir poco massiccia, ma sulle altre città come sta andando, Ardito? Mi ricordo che l'ultima volta che ci siamo sentiti stavate cominciando a pensare di avviare Roma. Su Milano un po' difficile, ma noi qua vi aspettiamo. Cosa sta succedendo? Mi fa molto piacere ricevere questa domanda, perché siamo in un momento molto felice, se vogliamo, del progetto. Noi siamo partiti da Torino e Torino abbiamo, diciamo, tra virgolette, coperta abbastanza. Sull'Italia abbiamo iniziato a muoverci grazie anche a voi e a questa diffusione mediatica, però siamo molto molto felici perché proprio in questi giorni, anzi ci fa piacere annunciarlo adesso sulle vostre frequenze, una grossa organizzazione che sostiene lo stile di vita etico, green, parliamo di LifeGate, una grande organizzazione green, ha messo, diciamo, in contatto noi in quanto iniziativa con un impatto etico e sociale con un'altra grossa realtà, parlo di un grosso gruppo, parlo del gruppo DEI in Italia, che fa parte di un gruppo che è diffuso in 17 paesi, 26 milioni di utenti nel mondo. E diciamo che dal sodalizio nato proprio in queste ore, direi, tra Last Minute sotto casa e il gruppo DEI, partirà un'operazione molto molto pesante, diciamo massiccia, di comunicazione che toccherà proprio da aprile Milano, Bologna, Roma, per cui siamo pronti assolutamente a portare questo bel progetto che già oggi sta facendo salvare. Sta diventando anche molto impegnativo per voi, naturalmente, oltre che a tutto l'effetto positivo che ha sulla comunità. Ardito, questa nuova legge vi aiuterà di più? Ma questa nuova legge qua è stato un piacere, proprio ieri abbiamo avuto modo di parlare con l'onorevole Gadda che ci ha raccontato un po' i dettagli. Se vogliamo, come avete giustamente sottolineato voi, mira a facilitare tutta una serie di attività, deburocratizzare le situazioni, per cui nello specifico non so quanto sarà direttamente legata alla nostra, diciamo, attività, però sicuramente sarà un passaggio molto molto importante, perché tra i vari temi ha la sensibilizzazione, questo è un tema su cui anche noi facciamo molta comunicazione, nel senso,

Per questo episodio ho imparato a comprare meglio, diciamo così. L'ultimo grido d'allarme lo facciamo lanciare, Lucchini, a Stefano da Rimini, perché qua tante cose nelle strutture devono cambiare. Stefano, 20 secondi, se ce la fa, lei fa la scuola serale in un istituto alberghiero, che cosa succede lì? Scuola statale, quindi in tutta Italia penso verrà così. Siccome quello che si cucina in cucina, noi praticamente come materia poi di fatto lo mangiamo, ma c'è tanta roba che si cucina, certo, e che siamo costretti a buttarla via, perché al di fuori dell'istituto non possono uscire alimenti. Questi ragazzi si devono esercitare cucinando, naturalmente quanta roba si butta non si sa. Stefano, grazie per averci segnalato anche questo, e sentiamo un po' se Lucchini col Banco Alimentare o altre organizzazioni possono andare a controllare anche tutto questo. Intanto noi abbiamo terminato la nostra trasmissione di oggi. Noi torniamo domani, sempre alla stessa ora. Buon pomeriggio. Buona giornata e basta con gli sprechi alimentari.